Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Si parla di urban mine, miniere urbane, con riferimento alla ricchezza in metalli preziosi e altri elementi rari di cui sono pieni i rifiuti elettronici, i cosiddetti RAE. È tutto vero, ma estrarre e separare oro, platino, rame, palladio, miscelati tra loro e a moltissimi altri materiali è in realtà una sfida che pone non pochi problemi. In particolare, le tecnologie di separazione oggi utilizzate sono o molto energivore oppure molto pesanti sul piano ambientale. Fanno uso di sostanze altamente corrosive oppure sprigionano gas tossici. Ecco perché il processo messo a punto dall'Università di Cagliari e descritto in un articolo uscito sulla rivista Green Chemistry ha attirato l'attenzione della comunità scientifica internazionale e di molti operatori del settore. Perché? Ce lo spiega subito Angela Serpe, che è ricercatrice del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Ateneo Cagliaritano ed è responsabile del progetto di cui stiamo parlando. Buonasera Serpe. Buonasera, buonasera. Allora, senta, intanto così ci capiamo, ecco, voi da che cosa partite? Su che materiali in realtà lavorate? Abbiamo dei rifiuti elettronici, quindi dai cellulari, ai tablet, ai computer, ai televisori? Sì, noi abbiamo lavorato su un materiale molto eterogeneo ottenuto per triturazione e separazione di piccole apparecchiature elettroniche, quindi proprio i materiali che lei ha citato, telefoni, cellulari, schede elettroniche e così via, già impoveriti, quindi del materiale plastico vetroso di supporto e concentrati nei termini dei metalli più preziosi. Quindi avete una polvere che per lo più è costituita già da metalli, che però sono tanti e mescolati fra di loro. Ecco, a questo punto veniamo al vostro processo. Che cosa lo distingue da tutti gli altri? Noi partiamo da questo semilavorato che contiene per la maggior parte rame e poi piccole quantità di altri metalli preziosi e andiamo con un trattamento selettivo che utilizza dei reagenti di ossidazione via via più ossidanti in funzione dei metalli che vogliamo separare. Quindi andiamo a sciogliere prima i metalli di base con degli attacchi più blandi possibili. Ecco, quando parliamo di ossidazione, adesso io dico una cosa magari un po', anzi decisamente approssimativa, però ecco, tutti sappiamo che il ferro si trasforma in ruggine, diciamo, no? E uno può togliere, grattarla via. Ecco, per capirsi, voi trasformate non proprio in ruggine, insomma, in qualcos'altro, però via via prima il ferro, poi qualcosa che fa più fatica ad ossidarsi, fino ad arrivare ai materiali che normalmente non si ossidano proprio. Sì, infatti, quindi nel primo trattamento rimuoviamo appunto ferro, zinco, piombo, stagno, questi metalli e nel secondo recuperiamo il rame e l'argento e nel terzo andiamo invece a ossidare l'oro con dei reagenti specifici che permettono di favorire la sua ossidazione e portarlo in soluzione in maniera semplice. D'accordo, ecco il vantaggio di questo processo per passi, qual è? Il vantaggio è che si utilizzano sostanze le meno aggressive possibile sulle diverse frazioni per arrivare poi all'ultimo stadio dove si utilizzano reagenti un po' più aggressivi ma in piccolissima quantità in quanto il metallo che rimane alla fine è poca cosa insomma sostanzialmente, mentre normalmente l'approccio è esattamente l'opposto, cioè siccome bisogna sciogliere persino l'oro, come dire, si butta dentro una roba molto aggressiva che agisce su tutta questa massa, quindi con un impatto molto più importante. Sì, la separazione viene poi fatta a valle. A valle, quindi si scioglie tutto, si sciolgono diciamo tutti questi metalli, li si ossidano tutti per semplificare e poi si separano. Voi invece fate esattamente il contrario, agite su un metallo alla volta. L'ulteriore vantaggio è che si utilizzano reagenti anche il più economico possibile per ogni stadio, con l'obiettivo di rendere sostenibile sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico l'intero processo, perché i reagenti che vengono utilizzati hanno entrambe le caratteristiche, sono di basso costo e sono anche riciclabili. Ecco, senta, perché metalli, questa cosa funziona, ne abbiamo detti un po', state lavorando anche su altri metalli? Diciamo che il processo è stato messo a punto per recuperare rame, argento e oro e in alcuni casi il palladio quando presente in quantità diciamo apprezzabili, però i nostri studi all'università stanno continuando per estendere il recupero anche ad altri materiali cosiddetti critici, come per esempio i lantani, cioè le cosiddette terre rare, oppure altri metalli come il cobalto, il tantalio, che sono in via di estinzione, di esaurimento. Sempre, che cos'è il progetto Recovery Green Metal? Il progetto Recovery Green Metal è un progetto di crowdfunding che sta raccogliendo fondi appunto sulla piattaforma di Telecom Italia www.telecomitalia.com ed è finalizzato all'ottenimento di un piccolo impianto pilota che serve per dimostrare la scalabilità del processo e fornire le informazioni per un'eventuale industrializzazione del processo. Ecco, parliamo di una cifra piccola. Possiamo definirla così? Sì, perché realizzare un impianto chimico sicuramente. Parliamo di 90.000 euro che state raccogliendo, insomma, chi vuole può contribuire a rendere più sostenibile il riciclo dei rifiuti elettronici. Va bene, grazie Angela Serpe. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento domani.